in primo piano. Buongiorno, buon martedì da Giulia Crivelli. Come dicevamo, oggi è una di quelle giornate in cui i titoli dei giornali, con poche variazioni, sono veramente tutti uguali e sono dedicati a quello che è successo ieri sulle borse, perché è stato un vero e proprio lunedì nero, è il caso di dirlo. Sono crollate tutte le borse, quella che ha perso di più è stata quella di Shanghai. E cominciamo oggi dal Sole 24 Ore, perché il Sole 24 Ore, noi diamo forse il meglio di noi, lasciatemelo dire, in queste situazioni. Sono proprio i temi del Sole 24 Ore, questi temi economici e finanziari. Le prime 9 pagine sono pagine di primo piano dedicate proprio a quello che sta succedendo sui mercati, ma naturalmente è uno scenario globale dove ogni cosa è collegata all'altra. E allora il titolo principale è Panico cinese sui mercati mondiali, con appunto tutti questi servizi e analisi che in realtà, se comprendiamo anche alcuni commenti, arrivano fino a pagina 12 del nostro giornale. Dalla prima pagina vi segnalo l'editoriale del nostro direttore Roberto Napoletano, nostro Il Sole 24 Ore di Radio 24. Ne avete sentito una sorta di sintesi dalla sua stessa voce prima nel GR, però vi leggo, che si intitola appunto un QE, cioè Quantitative Easing per Pechino, vi leggo la parte che non c'è stata, diciamo, nell'editoriale che è stato letto alla radio, perché è proprio la parte pratica di quello che forse adesso dovrebbe essere la reazione globale per questa crisi innescata dal rallentamento della crescita in Cina. Scrive Roberto Napoletano: bisogna che la più grande economia socialista in transizione, con il suo carico di anomalie, prenda atto della gravità dei problemi, la mancata crescita della domanda interna è di gran lunga superiore a quella prevista, e dietro questa crescita troppo modesta ci sono eccesso di risparmio da sfiducia nel futuro. Avrò ancora un lavoro? Potrò pagarmi la sanità? Che a sua volta genera un difetto grave di consumi. Difficoltà a pagare i debiti contratti dagli enti locali, che rivelano un eccesso di spesa infrastrutturale e deteriorano la qualità complessiva dei crediti. La bolla immobiliare e il peso nelle partite correnti di catene di produzione di semilavorati assemblati e venduti all'estero a basso valore aggiunto, che ne rendono deboli le esportazioni, incidendo sulla loro qualità. Questa è la realtà di un'economia che, per ammissione dei maggiorenti stessi del partito unico di governo, per tenersi insieme ha bisogno di un tasso ragionevole di crescita almeno del 7%, e di certo viaggia al di sotto di questo tasso. Vi segnalo poi anche un'altra analisi del vice direttore del Sole 24 Ore, Alessandro Plateroti, che si concentra proprio sul crollo dei listini, quindi l'amaro risveglio dei listini. Vi leggo la prima parte, poi continuo a pagina 3. Niente più di un grande crollo di borsa è in grado di spaventare l'opinione pubblica mondiale, i risparmiatori e i policy maker. Non perché la borsa rappresenti l'indice della salute o dei problemi di un sistema economico finanziario. Già in più occasioni in passato la borsa ha accelerato il passo pur priva di fondamentali economici a sostenerne la corsa. È appunto a pagina 3. O al contrario, è caduta o rimasta ai minimi pur avendo alle spalle economie in salute e comunque in ripresa. Se la borsa fa paura, e la drammatica giornata di ieri lo dimostra, è perché appese al valore delle azioni e degli asset finanziari ci sono risparmi e pensioni per migliaia di miliardi di euro e di dollari, ci sono i prestiti che le imprese hanno ottenuto dalle banche mettendo a garanzia e collaterali i propri titoli, ci sono i guadagni grandi e piccoli di chi ha compensato la stagnazione delle proprie rendite immobiliari e dei propri redditi da lavoro con l'effetto moltiplicatore di ricchezza creato da un mercato azionario che, salendo troppo e troppo a lungo, ha dato a troppi l'impressione di poter sfidare le leggi della fisica. Ma vi dicevo, tantissime anche altre le analisi per quanto riguarda la Cina, quella di Rita Fatiguso, che è la corrispondente della Cina del Sole 24 Ore, che si concentra sulle politiche della People's Bank, la banca centrale, ed è appunto un tema collegato al quantitative easing che invoca Napoletano. Le mosse di Pechino, People's Bank in caccia di liquidità, ma come vi dicevo, tantissimi gli altri approfondimenti per quanto riguarda anche l'export italiano verso la Cina, che è soprattutto un export di alta gamma, e poi le mosse delle altre banche centrali. Insomma, come vi dicevo, 12 pagine di approfondimento per cercare di capire che cosa sta succedendo e magari anche cercare di capire che cosa succederà nei prossimi giorni. Corriere della Sera, Cina, la grande paura delle borse, qui l'analisi è di Daniele Manca, Al male oscuro, ma vi segnalo soprattutto dalla prima pagina del Corriere della Sera invece un approfondimento di Federico Fubini sul PIL greco. Sapete che una decina di giorni fa è stata annunciata una crescita inaspettata del PIL greco e qualcuno ha già avanzato qualche dubbio sulla veridicità dei dati dell'ufficio statistico greco, e qui appunto l'analisi di Federico Fubini: lo strano balzo del PIL greco, tornano i dubbi dubbi sui conti di Atene. Un approfondimento anche sulla questione dei Marò di Giuliana Ferraino. E poi a pagina 16, invece, sull'altra questione, quella dei Casamonica, dei funerali e del clan Casamonica in generale, Ilaria Sacchettoni è andata a vedere come vivono alcuni membri del clan Casamonica, scoprendo che molti di loro sono in affitto in case popolari dove si paga 7 euro di canone. Il Messaggero, terremoto Cina sulle borse, qui l'analisi di Giulio Sapelli, una sfiducia sulle riforme di Pechino, appunto l'economia cinese è quella che Roberto Napoletano ha definito la più grande economia socialista in transizione anche perché alcune importanti riforme sono state annunciate o magari già introdotte, però appunto forse o non hanno ancora prodotto gli effetti desiderati o forse nessuno crede davvero che queste riforme in senso davvero di mercato possano essere attuate. Per quanto riguarda i Casamonica, naturalmente un lungo approfondimento sul rapporto del prefetto Gabrielli, di cui avete sentito anche nel GR, e poi un approfondimento sul verdetto che è arrivato ieri dal Tribunale del Mare sui Marò. Repubblica, borse, la tempesta globale, anche qui moltissime le analisi, una di Federico Rampini che è stato per tantissimi anni corrispondente dalla Cina della Repubblica e ora invece lo è dagli Stati Uniti, la bolla, il contagio e l'ultima incognita, la trovate poi a pagina 2. E poi il reportage invece da Giampaolo Visetti, che in questo momento è appunto il corrispondente di Repubblica da Pechino, le tre ferite del dragone che ci racconta anche la vita delle persone normali o comunque come questi scossoni che da noi hanno così tanta eco, se ne hanno altrettanta in Cina, appunto nelle grandi città, tra le persone. La fotonotizia è dedicata ai migranti, con una foto scattata a Palermo, dove ieri sono sbarcati altri migranti e soprattutto decine di bambini non accompagnati. Lo spunto di cronaca è l'incontro che c'è stato ieri tra Angela Merkel e François Hollande, la cancelliera tedesca e il presidente francese, che titola Repubblica, fanno pressing sull'Italia sulla questione di cui abbiamo parlato anche tante volte, della nostra scarsa capacità di identificare correttamente tutti i migranti e poi procedere anche al passo successivo, che è quello per esempio di vagliare le domande d'asilo. Vi segnalo anche dalla prima pagina un articolo di Francesco Merlo su Ignazio Marino, che come sempre alcuni ascoltatori poi mi mandano gli sms, non tutti sono d'accordo, però io credo veramente che Francesco Merlo abbia una scrittura, una capacità anche di dipingere da un dettaglio un grande quadro, rara più da scrittore forse che da giornalista, e il suo pezzo di oggi è dedicato a Marino, il titolo è Roma sede vacante, Marino scrive in USA, e vi leggo la prima parte. È così irrilevante, Ignazio Marino, sindaco di Roma, che ormai anche le sue dimissioni sarebbero insignificanti. Si è perciò nascosto ai Caraibi per scrivere le sue memorie, Libro dei sogni e Canto del pastore errante. Ignazio Marino potrebbe rubare il titolo al film dei fratelli Coen, L'uomo che non c'era. È infatti il laser che mai sta dentro la sua vita, quella vita, dice il Marino del film, che mi ha servito delle carte perdenti o forse non le ho saputo giocare, chissà. E poi vi leggo l'ultima parte, perché tra l'altro ricordiamolo, cioè Marino in tutto questo in queste polemiche, in questo caos, possiamo dire, in cui sono precipitate le varie autorità della capitale dopo il funerale dei Casamonica, non ha detto niente ai Caraibi, dove penso comunque i cellulari funzionino, per esempio, e non è tornato, e questa è una cosa che giorno dopo giorno fa sempre più effetto. Ecco quindi l'ultima parte del pezzo di Francesco Merlo, che trovate per intero a pagina 13 della Repubblica. Scavalcato, messo tra parentesi, trattato con alzate di spalle e sguardi al cielo, Marino è commissariato, sì, ma all'italiana, svuotato, reso superfluo e caraibico, espatriato in patria. Dunque Matteo Orfini gli fa da tutore politico, Franco Gabrielli al suo posto si occuperà del giubileo, ma la GO presidia la chimera delle Olimpiadi, la fiaccola della passione civile di cui Marino fu tribuno di Roma è passata nelle mani del Papa, e si sa che su Roma il consigliere all'orecchio di Renzi è Francesco Rutelli. Certo, l'ideale sarebbe stata quella legge speciale che proponemmo già nello scorso giugno per sottrarre Roma al Campidoglio e affidarla allo Stato, come Berlino e come Washington. Il commissariamento all'italiana, invece, è l'ultima stravaganza andreottiana, è la politica fatta di nascosto, è il gioco delle ombre, The Man Who Wasn't There, titolo originale appunto del film dei Coen. Ma dalla prima pagina della Repubblica vi segnalo anche le prime righe di un intervento di Laura Boldrini, Presidente della Camera, molto interventista la nostra Presidente della Camera, quindi non ha perso l'occasione di rispondere alla lettera che ieri Jean-Claude Juncker, Presidente della Commissione Europea, ha scritto sul tema dei migranti a Repubblica. E allora Laura Boldrini risponde: il vero muro da abbattere. La lettera comincia a pagina 29, in copertina, e poi la trovate a pagina 29, e dice, naturalmente Laura Boldrini dice anche delle cose condivisibili, cioè che non è probabilmente efficace innalzare altri muri, delle cose però direi anche abbastanza banali. Meno banale invece è, molto meno banale, l'intervista a Agnes Heller, che è una filosofa, forse la più importante filosofa ungherese vivente. È uscito di recente un suo libretto delizioso scritto a quattro, che raccoglie i suoi interventi insieme a quelli di Zygmunt Bauman, tenuti in un convegno a Bolzano, che si chiama La bellezza, e poi tra parentesi, non salverà il mondo, forse invece lo salverà. In ogni caso, appunto, intervistata da Andrea Tranquini, Tarquini dice: sono d'accordo con Juncker, l'Europa perderà la sua anima se continuerà ad alzare muri. Odio e ostilità devono soccombere davanti alla solidarietà per chi fugge da fame e guerra. Le chiede Andrea Tarquini: insisto, tanti emigranti producono tanti populisti, e allora... Agnes Heller risponde: è il pericolo più grave che la cultura dell'odio e dell'esclusione conquisti l'Europa. Rischio tragico. Per secoli l'Europa fu un continente di stranieri, gente che tra guerre, stati finiti e nuovi stati o imperi cambiava cittadinanza o nazionalità o cultura di riferimento. Quell'Europa delle tragedie fu anche l'Europa della cultura europea più vitale, dall'illuminismo alle belle arti a ogni campo. Oggi l'avversione allo straniero non ci difenderà dagli arrivi in massa, ma ci impoverirà nell'animo. Certo, occorre porre loro condizioni severe di integrazione, ma i muri creano solo nuovi nemici, ostilità a casa nostra. Chi è accolto come nemico diventa nemico nel nostro territorio, chi è integrato diventa patriota come i nuovi americani. Dalla prima pagina della Stampa invece il titolo, anche qui, borse, la Cina fa tremare il mondo, due i commenti, uno di Bernard Haas, un economista, se il dragone si scopre vulnerabile, e poi un commento di un economista italiano, Mario De Aglio: la nostra ripresa non è a rischio. Ci lasciamo un attimo e ci ritroviamo subito dopo per vedere altri titoli, altri approfondimenti di oggi sui giornali di oggi. In primo piano. Ancora buongiorno, buon martedì da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine dei giornali, monopolizzate dai titoli sulla Cina e la Stampa, appunto, che titolava La Cina fa tremare il mondo. Ma dalla Stampa vi segnalo un articolo di Mattia Feltri sulla vicenda degli abusi edilizi a Agrigento, nella Valle dei Templi, perché ieri, dopo a 20 anni dalla prima sentenza che imponeva di radere al suolo gli edifici abusivi, finalmente le ruspe sono intervenute. Allora Mattia Feltri ripercorre, come da par suo, perché anche lui ha questa penna molto felice, appunto da scrittore più che da giornalista, per dare l'idea di che cosa vuol dire far passare 20 anni per una sentenza che tutto sommato era giustificata, perché l'abuso edilizio deturpava la Valle dei Templi, ma poi l'esecuzione di questo provvedimento si è persa nella burocrazia tipicamente italiana. Allora vi leggo la prima parte. Abuso accertato nel 1993, entra, aperta parentesi, tanto per darci un'idea, entra al vigore il trattato di Maastricht, si scioglie la Democrazia Cristiana, Forza Italia non è ancora nata, Totò Riina, Pietro Pacciani finiscono in carcere, punto. La sentenza di condanna emessa dal pretore è del 1995, aperta parentesi, sui nostri computer compaiono i primi siti internet, Yitzhak Rabin è assassinato, con Schengen l'Europa abolisce le frontiere, punto. La sentenza del pretore diventa definitiva nel 1998, aperta parentesi, scoppia lo scandalo dei rapporti tra Bill Clinton e Monica Lewinsky, Alberto Tomba vince la sua ultima gara, viene fondata Google. E poi trovate appunto il resto del pezzo a pagina 25, che si continua un po' così, ma proprio per dire che ci sono voluti, scrive Mattia Feltri, due decenni abbondanti, probabilmente il tempo strettamente necessario per una questione giuridica della massima delicatezza, la demolizione di un muro abusivo nel quartiere intere villaggio Mosè nella Valle dei Templi. Non il muro di Berlino, nemmeno il muro del pianto, giusto un muro di recinzione lungo 80 metri e alto 1, costruito senza licenze in una zona dove l'abusivismo è la risposta a un'emergenza abitativa particolare, quella di chi necessita di una seconda casa con vista sulla Magna Grecia. Ecco, una vicenda tipicamente italiana, un po' di ironia non guasta, però ho trovato molto particolare questo espediente, appunto, di ricordare questi eventi che per molti di noi, per chi ha più di 30-35 anni, sono stati importanti, ricordano, e che hanno segnato questi oltre 20 anni che ci sono voluti per abbattere questo edificio, questo muro abusivo. Vi segnalo il secolo XIX, anche qui il titolo è Cina in crisi, panico nel mondo, ma perché a pagina 3 c'è un'intervista a un imprenditore genovese, Alessandro Giglio, che però lavora in Cina e dice: classe media terrorizzata, ma Pechino reagirà alla crisi. Secondo Giglio, ritirarsi dal paese, come qualcuno ha paventato per appunto gli imprenditori italiani ed europei che lavorano lì, sarebbe una follia, ricordando che la crescita del PIL è comunque del 7%, cioè 7 volte quella italiana, per dire, quindi e che comunque certo ci sono dei problemi da risolvere, ma lui resta ottimista. Libero, come si può guadagnare con il dragone spompato, l'analisi è di Tobia De Stefano, e poi altri servizi all'interno di Ugo Bertone e Maurizio Stefanini. Il giornale, l'11 settembre delle borse, la frenata cinese semina il panico, e con l'analisi di Marcello Zacchè, e anche qui tantissimi servizi all'interno. La fotonotizia però è dedicata alla sentenza di ieri del Tribunale di Amburgo, sentenza da Pilato, così la definisce il giornale, l'India non li processa ma non tornano a casa, e qui a pagina 13 trovate di Fausto Biloslavo, che tra l'altro è una voce che agli ascoltatori di Radio 24 dovrebbe suonare familiare, insomma è spesso intervenuto nelle nostre trasmissioni, c'è un'analisi molto completa di effettivamente quali sono gli scenari in questo momento e quali potrebbero essere le prossime mosse degli avvocati. Dalla serie di estiva Lettere d'amore del giornale, iniziata ormai alla fine di luglio, che sapete prende da una parte una lettera scritta da una scrittrice o da un esponente del panorama culturale che quasi sempre non c'è più, e poi fa rispondere invece a una persona che c'è e fa questa risposta immaginaria. Allora oggi la lettera è di Simone de Beauvoir a Sartre, il suo compagno di vita, e Sartre ha bisogno di me, non posso lasciarlo, questo è il titolo della lettera, e poi però Gaetano Cappelli le risponde: ma che femminista, stai con una mezza salma. I rapporti naturalmente da Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre hanno prodotto negli anni decine, centinaia di pagine, perché appunto era un rapporto tra sicuramente due grandissimi del secolo scorso, due grandissimi intellettuali del secolo scorso, ma che aveva poi dei risvolti, come sempre accade in amore, anche come così appunto da persone normalissime che sono alle prese con i problemi di cuore. E qui appunto quindi Gaetano Cappelli, perché Simone de Beauvoir naturalmente anche accreditata a ragione come una grandissima femminista nel senso diciamo originale del termine, e però poi si faceva diciamo secondo alcuni bistrattare appunto da Sartre. L'Unità, sindrome cinese, anche in questo caso molti gli approfondimenti, e poi qui dall'Unità vi segnalo un titolo su Renzi: Renzi ha deciso, nessun passo indietro, si accelera, il tema è quello delle unioni civili e delle riforme annunciate in generale. Oggi il Premier sarà al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini, ma ricorda l'Unità, c'è anche un altro appuntamento importante a Pesaro, che è la candidata a Città della Musica, e anche in questo incontro che avverrà dopo quello al meeting di CL ci si aspetta, scrive l'Unità, che il Premier spieghi ancora una volta qual è la tabella di marcia delle riforme che devono accelerare appena riprenderanno i lavori del Parlamento, cioè tra 10 giorni circa. Dall'Avvenire, il dragone fa paura, quindi anche in questo caso l'apertura tutta dedicata alla questione della Cina. Però vi segnalo, e l'Avvenire è l'unico giornale che dà questa notizia con questo spazio, ma non soltanto con questo spazio, che dà proprio la notizia, ed è quella dei disordini che ci sono stati ieri in Germania. Disordini, anzi, è quasi un eufemismo, perché sono dei veri e propri roghi nel sud della Germania, soprattutto indirizzati ai centri per gli immigrati. Di questo tema avevamo parlato in una rassegna stampa europea un paio di settimane fa, citando un articolo dello Spiegel, uno dei due più importanti magazine tedeschi, news magazine tedeschi, con un articolo che si intitolava La Germania, insomma, porte aperte all'immigrazione, ma fino a quando? Perché questi focolai di intolleranza, appunto l'Avvenire titola Profughi, lampi di intolleranza, ci sono già da qualche settimana. Ieri però sono apparsi più eclatanti che mai, tanto che anche la cancelliera Angela Merkel li ha duramente condannati. L'Avvenire, appunto, come ripeto, e trovate poi la notizia alle pagine 3, 4 e 5 con anche dei commenti, è l'unico giornale che dà con questa enfasi questa notizia, che sicuramente, visto che diciamo tutti che la Germania è in un certo senso un modello di accoglienza o comunque ha accolto tanti profughi, questo tipo di notizie sicuramente fanno paura. Il Fatto Quotidiano dalla Cina con terrore, anche in questo caso quindi il tema è quello dei mercati di ieri, e poi il Fatto Quotidiano dà in prima pagina, e in questo caso la notizia la trovate anche su altri giornali, però non in prima pagina e non con questa enfasi, la notizia di questo scambio, lo avete sentito anche nel GR, questo scambio proposto dal senatore Calderoli, che ha proposto tra i 500 e i 600 mila emendamenti alla riforma della legge costituzionale. E tutti sanno che è impossibile, sono talmente tanti che non è stato nemmeno possibile stamparli, sono stati solo distribuiti in forma elettronica a tutti i parlamentari che in teoria dovrebbero leggerli, esaminarli e poi votarli. Adesso però Calderoli propone, se arriva la grazia per un imprenditore, imprenditore bergamasco che sparò e ucciso un ragazzo che gli stava rubando l'auto ed è stato condannato a 6 anni e 2 mesi ed è in carcere da quasi un anno, ecco, se arriverà la grazia, allora Calderoli ritira i suoi emendamenti. E Il Fatto titola: Suc Senato, via libera della Lega se arriva la grazia a un omicida. Passiamo un po' alle pagine interne. Allora vi segnalo dal Corriere della Sera un approfondimento di Giuseppe Guastella da New York sulla corsa sull'inizio di campagna elettorale per le prossime presidenziali. Non siamo ancora arrivati alle primarie del Partito Repubblicano e di quello Democratico, si stanno però scaldando i motori, abbiamo visto già alcuni dibattiti televisivi, sappiamo quanto stia crescendo la popolarità di Donald Trump, che potrebbe essere il principale candidato del Partito Repubblicano, però Giuseppe Guastella ci spiega che anche Biden, Joe Biden, il vicepresidente americano, starebbe pensando di candidarsi, anche se sappiamo che in questo momento la candidata principale è Hillary Clinton. Biden, tentazione Casa Bianca, nel nome del figlio che è scomparso di recente per un tumore, e contro Hillary. Il vicepresidente è pronto a scendere in campo dopo le difficoltà di Clinton sul caso email. Il riferimento è al fatto che Hillary Clinton è in questo momento molto criticata perché avrebbe usato il suo account governativo per mandare delle email anche personali, una cosa gravissima per gli standard americani. Pensate, in Italia forse non se ne parlerebbe neanche. Dalle pagine interne del Corriere della Sera anche un articolo che trovate richiamato in prima pagina, che riguarda un tema legato alla sanità. Si sta studiando un modo per ovviare a un problema grande, che è quello delle cause contro gli ospedali, le cause intentate contro gli ospedali per i casi più o meno veri o più o meno gravi di cosiddetta mala sanità. Adesso la proposta del Ministero è che l'onere della prova cada sul paziente, sia il paziente a dimostrare che il medico ha sbagliato. Questo naturalmente perché questo ridurrebbe i costi a carico delle strutture sanitarie accusate, li aumenterebbe però per il paziente che deve intentare causa. C'è tutta una pagina di Margherita De Bacche, la pagina 25 del Corriere della Sera. Gaia Piccardi invece ci racconta la vita da Bolt, sapete, Usain Bolt, che ha vinto i 100 metri, ma oggi sarà i 100 metri ai mondiali di atletica cinesi, ma oggi sarà in campo per la finale dei 200 metri con con il rivale, anche in questo caso sarà Gaitlin, e Gaia Picard intanto ha, cioè appunto ci riracconta questa vita da Bolt, la sua simpatia conquista Pechino, ma lui è una vera macchina da soldi, fattura 20 milioni di dollari all'anno e sarà protagonista di un film. E questo racconto lo trovate a pagina 45 del Corriere della Sera. E poi, per restare un pochino in temi di leggerezza, pagina 23 della Repubblica, richiamato in prima pagina, una pagina di Gabriele Romagnoli, per tutti gli amanti di gatti, che comunque sono tantissimi, mi ci metto anch'io naturalmente. Il titolo è Yes We Cats, quindi non Yes We Can, ma Yes We Cats. I gatti di internet ora espugnano anche i musei. Al MoMA di New York spopola una mostra dedicata ai video web dei felini più amati. Visitarle è un viaggio in una mania che ci accomuna tutti e in cui si riflettono i nostri desideri. Perché queste affermazioni così estreme? Ve lo spiegano le prime righe dell'articolo di Gabriele Romagnoli. Se collegandoti a internet non hai mai guardato immagini o video riguardanti gatti, non li hai mai inviati o ricevuti, collezionati su Instagram o ritwittati, due cose devi sapere. La prima è che faresti meglio non leggere questo articolo, la seconda è che stai mentendo. È semplice statistica: il 3% dei contenuti della rete ha per argomento un gatto. In 20 anni, dal 95 a oggi, i gatti hanno conquistato il web. E questo è proprio il titolo, How Cats Took Over the Internet, di una mostra al MoMA, Museum of the Moving Image di New York, appunto pagina 23 per tutti gli amanti di gatti, e sappiamo sono tanti, della Repubblica. Ci lasciamo un attimo però per gli aggiornamenti sul traffico. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti, vi presenta In Primo Piano. Ancora buongiorno da buon martedì da Giulia Crivelli. Due ascoltatori via SMS mi ricordano che in realtà il dato sul PIL italiano del 2014 non è una crescita dell'1%, ma era addirittura una recessione dello 0,4%. Io infatti, un po' con un ottimismo un po' esagerato, pensavo alla crescita prevista per il 2015. Allora in quel caso le stime più ottimistiche appunto parlano di circa l'1%, e in quel caso sarebbe 7 volte meno di quella della Cina, prevista al 7%. In ogni caso, insomma, speriamo che sia la crescita italiana che quella cinese mantengano queste stime positive. Comunque torniamo alle pagine della Sole 24 Ore, la copertina di Impresa e Territori, cioè la parte più strettamente economica del giornale, ha un approfondimento di Andrea Biondi sulla situazione dell'ICT, della Information and Communication Technology, che è una parte importante in Italia, perché infatti l'articolo fa parte di una serie che si intitola Le chiavi della manifattura. Servizi cloud e app spingono in questo momento il settore, e Santoni, che è il presidente dell'associazione di settore che è Assinform, dice, spiega Andrea Biondi, è un momento di passaggio, alcuni ne pagheranno le conseguenze, ma come sempre poi alcune aziende usciranno da questo passaggio rafforzate. E poi nella sezione norme e tributi, questa è l'ultima settimana della serie guida dell'Amico Sole, e come sapete ogni settimana dall'inizio di agosto abbiamo cambiato argomento. Questa settimana i due argomenti sono, da una parte la riforma della pubblica amministrazione, dall'altra la scuola. Oggi, per quanto riguarda la pubblica amministrazione, si parla del nuovo contratto per il pubblico impiego, e per quanto riguarda invece la scuola, quello che viene definito il curriculum flessibile, cioè percorsi di studio fai da te, e alle superiori debuttano gli insegnamenti opzionali, quindi un approfondimento sulla riforma della scuola. Dalle pagine interne del Manifesto, a proposito di migranti, un reportage di Andrea Cugna da Budapest, dove anche in questo caso, come peraltro in tutti i paesi europei, ci sono arrivi di migranti. E allora questo giornalista ci racconta una notte tra i profughi siriani in attesa nella stazione di Szeged in Ungheria, appena oltre quel confine con la Serbia, che sono riusciti a superare dopo un'odissea e che ora sta per essere sigillato. E anche in questo caso, oltre ai numeri che abbiamo sentito anche ieri, ricordo sul Sole 24 Ore l'approfondimento di Rossella Cadeo, che spiegava esattamente quanti sono gli immigrati in Italia, regolari, e le stime sugli irregolari. Questo poi invece è un reportage proprio tra le persone. Dalla Stampa invece vi segnalo una pagina di Vittorio Sabadin, tra l'altro richiamata in copertina, è la pagina 29. Si parla di investimenti, si parla di mattone, in questo caso lui parla di mattoncino, il mattoncino è il mattoncino Lego, e Vittorio Sabadin ha studiato questo fenomeno, scoprendo che forse è stato l'investimento migliore per molti, perché le costruzioni di Lego fruttano guadagni medi del 12%, si parla dei Lego storici, dei Lego vintage. Il Millennium Falcon, per esempio, un pezzo del 2007, costava 460 euro, ora chi lo possiede lo può rivendere a 3600. Unica precauzione: conservate le confezioni intatte. Questo, appunto, questo approfondimento a pagina. Tra l'altro, comunque, la Lego è un'azienda che si è saputa rinnovare, è entrata in crisi a un certo punto nel massimo boom di internet, e invece oggi è tornata a prosperare anche con i mattoncini vecchio stampo, perché è stato un po' riscoperto il piacere da parte dei genitori, forse quindi anche dai loro figli, di costruire con le mani qualcosa. A proposito delle unioni civili di cui abbiamo parlato ieri e che forse saranno anche un tema nei prossimi giorni, e forse anche oggi al meeting di Rimini Renzi tornerà sull'argomento, l'approfondimento più grande lo trovate sul Messaggero a pagina 13, unioni civili, il governo stoppa CEI e NCD, CEI la conferenza episcopale che tramite Bagnasco ha ribadito ancora una volta che per la Chiesa le unioni civili non devono essere equiparate al matrimonio, e anche all'interno del nuovo centrodestra ci sono state proteste per questa promessa di Renzi di introdurre quanto prima le unioni civili. La trovate tutto questo a pagina 13, appunto, del Messaggero. Dicevamo della corsa iniziata per le presidenziali americane che si terranno nel novembre del 2016. Paolo Guzzanti sul Giornale, con un reportage da New York, ci racconta l'antipolitico Trump visto dall'America: divigna, divide, indigna, ma piace, è ricco e ama ostentarlo, però sa mettersi in sintonia con l'americano medio, specialmente con quello stanco del politicamente corretto. E questo lo trovate a pagina 14 del Giornale. Dall'Avvenire, un approfondimento che ho trovato interessantissimo sulla fusione nucleare. Se ne è parlato tanto in alcuni anni, quando la fissione, invece, che naturalmente è il processo quello alla base delle attuali centrali nucleari, che sappiamo produce le scorie, e poi si diceva forse un giorno se arriveremo alla fusione, cioè l'energia nucleare pulita. La ricerca prosegue, anche se magari non se ne parla, e così scopriamo, grazie a questo articolo sul Messaggero, sull'Avvenire, che negli ultimi 3 anni le imprese tricolori hanno vinto contratti per oltre 900 milioni, quasi il 60% del valore delle commesse per la produzione della componentistica ad alta tecnologia del progetto internazionale di ricerca ITER, appunto sulla fusione nucleare. In questo momento sono 6,6 miliardi di investimenti europei per la ricerca su questo tipo di fusione, 900 milioni appunto il valore delle commesse italiane, 500 le aziende interessate. Ancora alcuni altri approfondimenti a proposito dei Casa Monica sulla Stampa, anche qui per cercare un po' di alleggerire, insomma, sul funerale dei Casa Monica a Roma, con i cavalli, con la colonna sonora, con il padrino, il lancio di petali di rose dall'alto, abbiamo letto tutto. E però in questo caso Giacomo Galeazzi, da appunto sulla Stampa, ci racconta che c'è questa ultima moda di questi funerali particolarmente kitsch o strani, riti shock, dalla bara in sidecar, cioè anche una foto, al brillante con le ceneri dei defunti, cioè un brillante fatto con le ceneri. Chi c'è sfarzo quando persino l'estremo saluto diventa un evento? Un articolo, insomma, molto divertente, che trovate a pagina 9 della Stampa. E poi su Italia Oggi ho trovato questa notizia: chi magari ci ascolta anche alla domenica sa che a volte citiamo le interviste di Stefano Lorenzetto sul Giornale, che fanno parte di questa serie Tipi Italiani, e così ho scoperto su Italia Oggi che Stefano Lorenzetto in realtà è entrato nel Guinness dei primati, perché nessuno ha mai fatto così tante interviste di così lunghe come lui. Con l'intervista uscita domenica scorsa si arriva a quota 768, e quindi appunto un primato da Guinness dei primati, dal Guinness World of Records. E però ho anche scoperto, lo scrive Italia Oggi, che quella che uscirà domenica prossima è l'ultima intervista di questa serie. Ultimissima segnalazione che vi faccio, sempre dalla Stampa, un approfondimento su un incontro che ci sarà il 6 settembre con lo psichiatra Eugenio Borgo al Festival della Mente di Sarzana. Ti ascolto dunque sei, l'arte di parlarsi con il cuore. È un po' dedicata, è un'anticipazione del nuovo libro di questo psichiatra, che spiega come salvare il bene che è minacciato da questa ipercomunicazione in cui siamo immersi. La soluzione, secondo lui, è sempre quella di mettersi in discussione. Era un po' facile a dirsi. Non sì. Si riesce neanche a quasi a dirsi ciao senza che l'altro si arrabbi per il tono. c'è veramente questa indisponibilità all'ascolto e a raccontarsi. Oggi ne parleremo per un aspetto culturale che ancora fa discutere tantissimo, partendo da una festa organizzata a Corsico, cioè in provincia di Milano. È arrivata una donna col burka, è stata allontanata perché la sicurezza viene prima di tutto, le ha spiegato il vice sindaco di Corsico, che è una donna, Flavia Perrotta, e le ha spiegato che le regole italiane non permettono di coprire il volto in questo modo. Dobbiamo registrare che in questo caso è stato andato tutto in maniera molto, come dire, senza asperità né scontri. La cultura e la religione delle persone che ospitiamo non possono prescindere dalle regole della nostra comunità, che devono essere rispettate da tutti, è stato detto. Anche la comunità musulmana, che era presente sul luogo, ha detto che l'episodio è passato inosservato, è stato un caso isolato, le nostre donne non usano più il burka nemmeno nelle nostre terre, ha detto infatti Abrahim Hessein, che era presente alla festa. Ma comunque parleremo di queste modalità sull'indossare il velo e come viene percepito dagli occidentali, come viene percepito da noi donne, per esempio, Giulia. Anche perché poi ce ne sono tantissimi tipi diversi, no? Come credo tu spiegherai. E ce lo spiegheranno direttamente le donne musulmane, che hanno un po' più di familiarità con questo tipo di abbigliamento. Il tutto alle 9. Noi vogliamo chiedervi se voi assumereste una persona che indossa l'hijab, il velo, si copre i capelli, e la portereste nella vostra azienda. Avete difficoltà, l'avete già fatto, ditecelo al 349-238-6666. Alle 8:30 invece affronteremo il tema dei dottori, i medici. È ancora un sogno diventare dottore, secondo te? Io, per me, per esempio, è il mio sogno personale, ma questo forse perché sono figlia di medico, però in effetti c'è questo dato, fa impressione. Perché cioè la fuga dai test, rinunciano i 5.000 studenti in meno iscritti ai test d'ammissione di medicina, tema che affronteremo sempre alle 8:30 in Spunti di Vista, e noi ne parleremo con i nostri ospiti, il tutto dopo il GR. Ora la linea va al notiziario, Giulia Crivelli ritorna con la rassegna stampa domattina. Grazie.